si yo viene el lento divagar una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Siamo alla nostra seconda giornata torinese, vediamo di regolare questo eco terrificante che mi sta rompendo l'orecchio, ma è comprensibile stando noi all'interno della Fiera del Libro, stando in uno stand color verde pisello che staglia mirabilmente di fronte a uno stand in cui vendono medicamenti, libri magici, in cui ci sono meravigliose ragazze che sono fatte firmare la loro nuda carne. Quindi questo per riassumervi velocemente quello che è il clima di questa giornata dedicata alla letteratura, dedicata alla carne, perlomeno nella nostra visione. Noi sin da ieri stiamo concretizzando quella che era la profezia che la nostra radio voleva portare avanti, che la carne di ogni essere umano può in realtà diventare materia meravigliosa per un'opera letteraria. Poi la letteratura può essere di varie gradualità e di vario diritto o merito di attenzione. Quello che vorrei chiedervi questa mattina, come abbiamo fatto ieri, di telefonare all'800240024 e portare le vostre storie personali. L'autobiografia di ciascuno di voi può avere degli spunti per noi meravigliosi, per essere narrata, per essere raccontata. Questa mattina lo faccio con alcuni ospiti presi qui dal salone. Il primo è Giuseppe Culicchia. Culicchia, buongiorno. Buongiorno a voi. Culicchia è autore torinese, innamorato della sua città, raccontatore della sua città. Nel suo ultimo libro, che è proprio in questi giorni presentato qui al salone, Brucia la città, parla delle metamorfosi della sua città. Ogni città in realtà è qualcosa che assomiglia alla carne in cui noi ci immergiamo. E tu vedi, osservi la carne della tua città nella quale sei immerso e vedi delle profonde mutazioni. Sì, la città è carne viva. Quando una città poi cambia così violentemente, come è il caso di Torino nel corso di questi ultimissimi anni, ti rendi davvero conto che è un organismo vivente, che muta, cambia pelle, cambia organi interni. Quindi anche te, nella tua osservazione, nella tua trasformazione del luogo della tua ispirazione massima, che è la tua città, compi questa operazione quotidiana di trasformare la carne che osservi e ti circonda in letteratura. Ma credo che questo sia un po', faccia proprio un po' parte del mestiere di tutti quelli che scrivono. Siamo tanti piccoli Frankenstein che prendiamo una testa, la inchiodiamo a un corpo, poi cambiamo idea, stacchiamo una gamba, ne attacchiamo un'altra, perché molti personaggi letterari derivano naturalmente dall'osservazione, dall'ascolto di quello che dicono persone reali, salvo poi però intervenire anche in maniera piuttosto pesante con la genetica, con bisturi, forbici, eccetera. Da quello mi sembra di intuire, vedo dalla scheda del tuo libro che vedo davanti, che mi sono richiamato con Google pochi istanti fa, quindi non voglio simulare letture che non ho fatto, non c'è cosa peggiore e che sicuramente farò. Vedo molto il senso della mutazione eterodossa, mutazione violenta, vedo parlare di zombie, di mutazioni quasi mostruose. C'è questo senso di divertito e interessante senso della metamorfosi, non secondo canoni regolari, nella tua osservazione della tua città di questi ultimi tempi? Ma io credo sì che un po' tutte le città abbiano in sé qualche cosa di mostruoso oggi, forse no, anzi non da oggi naturalmente, perché poi se andiamo a vedere grandi classici della letteratura che hanno come protagonisti le città, uno dei miei libri più amati è Berlin Alexanderplatz di Döblin, e anche lì questa Berlino è meravigliosa, però anche mostruosa, tinghiotta, è una cosa assolutamente che non riesci a tenere. E Torino da questo punto di vista un po' come, diciamo, è piuttosto la realtà che ci circonda, che è di sé grottesca, per quanto tu ti sforzi di competere con la realtà in quanto scrittore, la realtà vince sempre. C'è un esempio che mi viene in mente, che è quello: a un certo punto durante la storia i protagonisti che fanno largo uso di cocaina leggono sul giornale che a Roma è stata trovata la cocaina nell'aria, le centraline rilevano le polveri sottili, proprio alla Sapienza tra l'altro, dove evidentemente danno un mucchio di esami molto velocemente. E beh, se tu come scrittore ti fossi inventato una cosa del genere, l'editore forse ti avrebbe detto: ma no, figurati, la cocaina nell'aria, che stai a scrivere, questa non è troppo grottesca. No, la realtà vince sempre sulla letteratura. Quindi c'è un meraviglioso irrompere irrazionale del fantastico che noi viviamo tutti i giorni e un desiderio di deriva dell'autore, dello scrittore, del poeta, di abbandonarsi a questo flusso divoratore, allo stesso tempo rigeneratore della carne nella propria città. Continuo a parlare di carne con il secondo ospite, Rita Charbonnier. È un'esplosione di carne, mi sta accanto, ha un sottile e inconsutile vestitello trasparente, è un'esplosione di carnalità che io ho già firmato, su cui ho posto la mia firma. Chi volesse prova di questo vada nel mio profilo Facebook, dove ho già immortalato la foto delle mammelle di Rita Charbonnier firmate. Rita Charbonnier, anche lei parla qui di mutazione, anche lei parla di carne e si trasforma in letteratura. Non voglio entrare in maniera brutale nell'intimità della tua autobiografia, ma vediamo se tu riesci a renderla per la forza che essa contiene. Beh, diciamo la relazione tra la mia biografia e la biografia del personaggio del mio romanzo. Il romanzo PM, La strana giornata di Alexandre Dumas, firmato da Rita Charbonnier. Ma su questo tuo nome già vorrei soffermarmi, perché c'è la chiave di lettura e la ragione per cui sei qua carnalmente presente. Sì, questo libro racconta la storia di un personaggio che, tra le altre cose, cambia nome. È una donna che, realmente esistita, che a un certo punto della sua vita, quando già era grandicella, all'età di 48 anni, scoprì che era stata scambiata nella culla, lei che era nobile, con un neonato di vile condizioni. Cioè, questo è un topos letterario. Sì, nel caso, infatti, in effetti ci sono anche molte discussioni su questo caso, proprio perché assomiglia. Sì, ma vai al sodo, sai cosa mi interessa, non girarci intorno. Io sto cercando di... No, dai, sbrigati, c'è poco tempo, forse. Come si chiamava questa signora? Questa signora nasce come Chiappini. Quindi siamo proprio nel luogo della carne più carnosa del corpo umano. Un nome anche ignominioso perché è legato ai glutei, alla carne. Sì. Abbiamo un nostro collega, si chiama Chiappini, non c'è nulla di male, ma forse una donna a chiamarsi Chiappini potrebbe richiamare alcuni problemi, probabilmente. La signora Chiappini cosa fa a un certo punto? A un certo punto fa un'azione legale vera e propria, perché venga stabilito ufficialmente che lei non è figlia del Chiappini, ma di una coppia nobile francese che appartiene alla casata degli Orléans. Quindi lei da Chiappini diventa Orléans. Va bene, mi sembra un passaggio importante. 800 24 00 24, aggiungete alla vostra storia vissuta sulla vostra carne a quella di Rita Charbonnier, che rivelerà il vergognoso segreto della sua esistenza. Perché ti chiami Rita Charbonnier? Mi chiamo Rita Charbonnier perché è il cognome di mia nonna. In realtà io sono nata come Presciuttini. Rita Presciuttini. Ecco, finalmente in questo meraviglioso coming out ha rivelato il motivo per cui si è affidata alla letteratura per una sorta di riscatto. Sì, no, è curioso in effetti. Ma perché Presciuttini ti dava fastidio? Ma perché lo trovo un po' buffo. E comunque evidentemente... Dici? Assolutamente. Però il fatto che sia un cognome letteralmente ridicolo è... Ma perché ridicolo? No, il prefetto di Roma me l'ha cambiato per questo. Cioè la motivazione del mio cambio di cognome, perché io ho cambiato legalmente, ho cambiato il cognome, il codice fiscale, tutti i rapporti bancari, i documenti, è stato un lavoraccio, devo dire. Scusami, i tuoi genitori Presciuttini, sì, ti guardano come qualcuna che rinnega il casato? Mio padre no, mio padre mi ha addirittura fatto una lettera nella quale non solo dava il consenso, perché ci vuole anche un consenso di un parente stretto, ma consigliava garbatamente il prefetto di Roma dell'opportunità, insomma diceva che secondo lui era opportuno che il cognome fosse cambiato. Da parte di altri miei parenti più giovani, devo dire, con mia grande sorpresa c'è stato questo senso di: ah, ma tu ci stai rifiutando, ah, ma che cos'è sta storia, ah, ma perché non sei più una Presciuttini? Adesso io posso dirlo proprio perché c'è stato il cambio effettivo, proprio perché io sui documenti mi chiamo Charbonnier. Un tempo era un losco segreto e adesso non è più un losco segreto, è come, certo, mi chiamo. E quindi mi fa piacere che c'è una così palese carenza di problematiche realmente drammatiche o sinceramente degne di intervento, che anche cambiare un cognome diventa un motivo di felicità. Beh, questo mi fa piacere. Però è legato, è importante, perché appunto ti stacchi dalle tue radici in qualche modo. Essere Charbonnier nell'esteriorità e Presciuttini nell'animo, in questo punto evidentemente aiuta. Io volevo andare adesso avanti, però fare una proposta a Culicchia. Culicchia, nelle infinite possibilità di metamorfosi, di mutazione, di trasformazione, di derivazione, di cambiamento e di flussi diversificati che attraversano la tua città, noi ne abbiamo colto uno. Una signora ci ha chiamato e ci ha raccontato la sua storia dicendoci che lei è una torinese doc. Ascoltiamola. Sono quasi 8 anni che è mancato mio marito. Allora io dico la sincera verità, talmente che stavo male e volevo un aiuto, no? Per tirarmi su, perché piangevo sempre, come uno sciocco proprio. E allora ogni sera, il giorno, cioè il pomeriggio, andavo al cimitero. Al ritorno, che erano le 5, me ne andavo in parrocchia, che c'era il rosario, c'era la messa alle 6. Dopo detto la messa, si rimaneva una mezz'ora a chiacchierare col prete, sa, si parlava sul dunque, la famiglia com'era, quanti figli hai avuto. Prima andavo dell'epa, poi c'era del tu, che mi sono accorta e cominciavo nei discorsi, mano a mano, i giorni che si parlava. Ecco, Giuseppe Culicchia, sentiremo adesso tutta la storia di questa signora. Il fatto che lei sia presentata come torinese, palesemente, sentendola parlare, ha altre origini. Cosa ti fa pensare? Ma ha ragione la signora, lei a questo punto è una torinese doc, perché i torinesi, quelli che sono torinesi da generazioni, uno deve andarli a cercare davvero col lanternino. Torino ogni tanto, perfino a Porta Palazzo, che è il luogo in assoluto più internazionale della città, prima di tutto perché negli anni 50 era lì che si ritrovavano gli immigrati dal sud arrivati a Torino, che avevano l'abitudine di ritrovarsi in piazza la domenica mattina come facevano nei paesi d'origine, e cosa che oggi fanno i nordafricani, no? Per dire, ed oggi ci sono i cinesi a Porta Palazzo, ci sono... La mutazione è questa, vedi interi quartieri che li attraversi e non vedi un italiano, ma cioè, diciamo chiaro, un bianco, anche se la parola è brutta, ma i tassisti questo mi dicono: guardi qua, non vedo un bianco per 10 minuti. È vero. Sono meravigliosi i souk, sono delle altre città nella città. E quindi, come le vivono i torinesi queste cose? La signora, con il suo meraviglioso accento pugliese, si sente torinese doc a questo punto. Ha ragione, perché chissà, magari è arrivata qui bambina, oppure è nata qui, quell'accento ce l'ha perché in casa si parlava dialetto, va a sapere la storia sua. Però lei si sente torinese perché è circondata improvvisamente da alieni. E quindi, come dire, ha un po' lo stesso atteggiamento, ma questo è del resto una cosa ciclica nei fenomeni migratori e nelle loro conseguenze, del fatto che quelli che sono arrivati un po' prima degli ultimi tendono così, siccome hanno fatto di solito anche molta fatica a integrarsi, Torino non è stata una città facile in cui integrarsi negli anni 50 e 60, la fatica è stata tale per cui da un lato quando ci riesci un pochino davvero ti senti parte della città, ci tieni davvero, e dall'altro quando arriva qualcuno di nuovo dici: ma come, questo arriva e vuol portarmi via qualche cosa che io ho fatto tanta fatica. Mi fa venire in mente Octavio Paz, premio Nobel messicano, quando parlava degli immigrati messicani che andavano in California, lui fa un saggio bellissimo sul Pachuco. Il Pachuco è l'immigrato che arriva e già si trova a dover per forza crearsi una sua condizione di quasi americano, e quando vede arrivare i nuovi immigrati messicani di fresca entrata, li tratta con disprezzo perché gli ricorda ciò che lui non vuole più essere. Quindi esiste anche questo drammatico senso di gerarchia nell'emarginazione dell'immigrato. Certo. E probabilmente oggi quelli che più vedono con senso di perplessità la nuova immigrazione, che crea comunque dei problemi, non bisogna fare finta che sia semplicemente una passeggiata, ci sono veramente problemi forti di convivenza, di socializzazione, di integrazione. È il primo a prendere le distanze, dire: io sono torinese, cosa c'entrate voi? Certo, a Torino, questo stiamo parlando già di molti anni fa, però le prime manifestazioni contro l'immigrazione avvennero proprio nel quartiere di Porta Palazzo, e i nuovi negozianti di Porta Palazzo parteciparono a queste manifestazioni ed erano in genere, appunto, ormai i negozianti piemontesi a Porta Palazzo, io ne conosco due, dove entro e si può parlare piemontese con loro perché sono lì davvero da generazioni, gli altri no. Andiamo avanti con la storia della nostra signora, che assumerà confini senz'altro interessanti. Però lui si metteva le mani concerte e ascoltava bene, di che tanto un prete posso parlare dentro di me. E niente, cominciava così. Poi la sera, il giorno appresso ancora la messa, diciamo, sto tirando ancora, adesso è quasi un anno, vuole il suo, come dire, essere baciato, un bacetto così, ciao, un bacino al viso. Però ho visto io, dentro di me mi sento di andare oltre, però non ho detto niente, perché mi sento, come dire, quando uno si innamora, va. E lui su per giù c'ha la mia età ormai, se sta duro, finito già. La storia di questa signora si sta facendo intricante, lei vedova, frequentazioni assidue alla tomba del marito, improvvisamente c'è l'incontro con il prete. Incontra il prete, si cominciano a vedere, si cominciano a sentire, c'è ancora una sorta di rapporto pastorale fra lei e quel sacerdote, ma però la signora, un po' per la sua natura, un po' per la sua terra di origine, un po' per l'indifferenza e la distanza sabauda che non può avere in quelle circostanze, beh, si lascia un po' andare in questa storia. L'ultimo giorno che l'ho visto, l'altro giorno così, ciao, come va? Dice, io ti aspetto che tu non vieni più. Però io, come dire, ho paura, perché sta sempre nel mio pensiero ormai, che, però ho paura che, dico, se mi vedo una volta in più, succede quel che non deve succedere. Che ti va a letto. Io l'ho capito, lui pure, però aspetti il momento che, come dire, che cadiamo come le pere tutte e due. E ho paura per quello, anche se mi sento di essere una donna ancora, diciamo che vibra ancora io dentro di me, sento ancora i battiti, sento ancora il respiro, sento tutte quelle cose. Però alla fine mi vergogno di, diciamo, di fare una cosa di questo con sto prete, dico, perché poi non si stacca più a facendo. Rita Charbonnier, poi sentiamo anche Giuseppe Culicchia, un tuo commento su questa storia di questa signora. Temo che la vicinanza e la carnalità della mia natura, penso la signora ha 70 anni passati se non di più, però ancora si sente donna, e dietro quella tonaca, dietro l'uomo di chiesa vede comunque un uomo che sente preso dalla sua passione, con la quale potrà condividere forse qualcosa, forse no, forse si fermeranno. C'è molta letteratura in questa storia. Sicuramente, sicuramente, ma poi mi colpiva anche appunto la parlata di questa signora, la parlata così fuori dal piemontese. Mi chiedo se insomma è così tanto relativo il senso, questo senso di trasmigrazione, di migrazione, così, i confini sono qualcosa di così tanto relativo, e mi chiedevo se anch'io non posso essere in qualche modo considerata un'immigrata per il semplice fatto che Charbonnier è un cognome piemontese, un cognome valdese, quindi chi lo sa, cioè. Culicchia, c'è qualcosa però che un piemontese non direbbe mai, che ha detto questa signora. Non ci rivedo molto dei caratteri tipici, ammesso che possono essere ancora tracciati, la piemontosità in questa aperta dichiarazione di passione, poi non vissuta, magari non consumata, ma spudorata completamente. La signora ha usato una parola, vibra, lei si sente vibrare. Il piemontese non vibra. Il piemontese non vibra, se vibra comunque non... Anzi, io sono sicuro che vibri, però non lo direbbe assolutamente mai, neanche sotto tortura, soprattutto un piemontese. Vibra immobile, probabilmente. Sì, a 70 anni poi, è proprio una generazione che assolutamente non userebbe mai. Poi la vedo in positivo, vedi questa iniezione però di vitalità, tutto vitalità. Sommato, fa bene. Fa bene. Viva la faccia che esiste questa signora, che poi ha il coraggio di raccontarlo alla radio. Probabilmente non ci vede nulla di male e sa perfettamente che è una proiezione meravigliosa e onirica di una sua passione. Sì, in quanto 71enne direi che è una sua grande manifestazione di innocenza. Se avesse 17 anni anziché 71, sarebbe malizia pura, certo. Per un esibizionista, come se ne vedono tante. Invece no, così mi fa tenerezza. Grazie Giuseppe Culicchia, grazie Rita Charbonnier, ma non è che se ne vanno, rimangono qui. Nel frattempo vi prego di telefonare, non vedo vostre telefonate, 800 24 00 24. Se per voi è così difficile fare qualcosa di simile di quello che ha fatto la signora 71enne pugliese diventata piemontese, beh, astenetevi, andremo avanti lo stesso. 400 24, siamo dalla Fiera del Libro. Stiamo con vari ospiti parlando in totale libertà sulle osmosi, sui passaggi, sulle trasformazioni tra carne umana o carne intesa anche come grande apparato di una città nel quale è immerso colui che ama, che vive, che è nato e prodotto da quella città, in letteratura. Quanto la letteratura sia a volte facilmente nascosta dietro l'angolo della vita, della biografia di ogni essere umano. Abbiamo sentito la meravigliosa e fantastica storia storia di una signora torinese di origine pugliese, vedova, che racconta il crescere attraverso tutte le palpitazioni, tutti i passaggi classici di una passione d'amore per il suo prete. Si guardano, si studiano, cominciano a scambiarsi qualche casto bacetto e lei si sente vibrare, sa che a un certo punto anche il prete comincerà a vibrare e da questa vibrazione potrebbe nascere qualcosa o non potrebbe nascere qualcosa. Egidio da Roma, buongiorno. Buongiorno. Se mi permette, la chiamo signor Melog. Mi chiami come vuole, basta che esprima il suo parere su quello che è l'argomento del giorno. Volevo rimarcare all'intervista di quella signora di origine pugliese veramente la grandissima semplicità, la schiettezza più assoluta espressa con una sintassi che solo noi pugliesi possiamo capire. No? Ah, ecco, lei parla pro domo sua, perché è pugliese. No, perché io lo capisco bene, i modi di dire, ed è veramente una storia che mi ha commosso. Senta, allora lei aggiunga il tassello che a noi manca. Io in studio Giuseppe Culicchia, piemontese, torinese, conosce ogni passaggio, ogni mutazione, ogni trasformazione della sua città. Abbiamo Rita Charbonnier che si chiamava Presciuttini, quindi ha voluto cambiare nome, si è preso questo bellissimo nome di origine piemontese per nascondere la sua anima prosciuttimorfa. Abbiamo adesso è entrato anche Luca Mastrantonio, che è un amico, un collega del Riformista, che parla soprattutto di mutazioni, trasformazioni della carne in pixel. Nel suo Irrazional Popolare racconta questa bellissima transumanza degli italiani attraverso il mito della televisione. E anche lì c'è sempre questa idea, siamo naturali, siamo spontanei, le mamme delle figlie, del grande fratello, sii te stessa, dicono sempre. Ecco, lei in quanto pugliese, quali sono le caratteristiche peculiari che sente della sua carne in questa signora vibrante per il prete? L'innocenza con la quale lei... Questo ha detto Culicchia, infatti, l'ha detto giustamente. Questo sentimento. Ma è una, diciamo, è una forma di casto connubio usuale alle vostre latitudini, la contiguità fisica fra preti e vedove? No, questo no, però la... No, mica non, domanda, no, domandare, lecito. Non è una cosa, diciamo, usuale, no? Anzi, è del tutto usuale questa storia. Però vissuta, ripeto, con questa non trovo la parola. Non con... Abbiamo già detto innocenza, se le sta bene. Con questa innocenza, bravo, complimenti. No, a me è piaciuto vedere che la signora intuisce che al di là dello status esiste comunque una comunicazione extraverbale che attraversa qualsiasi essere umano, se no altrimenti tali non saremmo, e la intuisce e la coglie profondamente. Esattamente il contrario, Luca Mastrantonio, buongiorno, ancora tu non buongiorno. Hai parlato, di quello che accade nelle trasformazioni di carne in pixel, di cui spesso noi ci siamo soffermati. L'essere naturale o l'essere te stesso, che sembra la caratteristica principale del personaggio del reality show, e l'essere se stesso della vedova settantenne pugliese che sente palpiti vibranti per il prete. Ma insomma, qui secondo me c'è la magia della radio che ti fa spifferare qualcosa di te stesso, non devi mutare troppo. Ovviamente poi nel momento in cui hai un pubblico non sei solo te stesso, ma sei anche una persona di fronte ad altre persone. No, come dicevi, è essenzialmente una sorta di mutazione linguistica quella che invece avviene nei reality, cioè essenzialmente ci si veste di una corazza di così, insomma, di frasi, di esternazione, di descrizione di se stesso, più che diciamo di azione. Questo è molto curioso. Invece la signora sembrava che appunto avesse lasciato un po' aperta una porta su una scena che anche a prescindere da noi avviene, avverrà chissà quante volte avviene, e quindi forse assomiglia un po' più ad una piccola epifania, ecco, che abbiamo avuto il piacere di ascoltare. Giuseppe Culicchia, ho già citato il tuo libro Brucia la città, Mondadori, il tuo ultimo libro in cui parli proprio di mutazioni della tua città. È possibile tracciare un essere se stessi simulato anche nella piemontesità? Un essere se stessi che deve essere un vestito che si indossa la mattina per essere accettati o accettabili o per rispondere comunque a un modello? Ma direi che non è una cosa soltanto naturalmente della piemontesità, è una cosa che ci riguarda un po' tutti. Adesso io sono qua in veste di autore ospite di una trasmissione radiofonica però chissà se sono davvero questo o altro. Tanti vivono, tanti, credo che tutti noi si sia un tantino schizofrenici, anche se non vogliamo magari riconoscerlo. Non trovi sia meravigliosa questa schizofrenia di poter essere veramente tante cose senza porsi il problema in quale delle tante nostre possibilità sia appoggiata la nostra coscienza? Assolutamente, credo che chi scrive ha la fortuna di lavorare su questa schizofrenia, ha la fortuna di utilizzarla, sporcarcisi le mani e farla diventare poi anche nel migliore dei casi letteratura, perché poi alla fine uno lavora anche molto su... Cioè, a me è capitato di scrivere molti anni fa un libro dove c'erano 20 personaggi diversi che aspettavano un treno in una stazione della metropolitana ed erano uno una casalinga, un altro un manager, un altro una studentessa. Devo dire che c'era un pezzettino di me in ciascuno di loro, anche se erano... E poi paradossalmente magari c'era meno di me in quei personaggi così unici, il Valtteri tutti giù per terra, che tutti quanti ne ho sempre scambiato per me. Quindi questo è sempre la cosa più bella della letteratura, l'ambiguità. Il fatto di giocare con questa ambiguità, di spiazzare poi. Meno male sì. Che non è successo con Ambarabacci Cicocò, che ti identificavano con Ambarabacci, quello che buttava. Sì, il libro era quello, era Ambarabacci, dove c'erano queste 20 persone che aspettavano la metropolitana. E poi arriva un treno, non chiamato. Un inquietante treno. Treno, meno male che non ti hanno identificato. Con quello che buttava la. Se no ti vedevano in metropolitana. No, magari, ecco, quello ti spiega un attimo, che non ho detto che tutti alla radio sappiano di cosa trattiamo. No, certo. Ecco. Era semplicemente un libro che nasce da un fatto di cronaca, nasce da una carne smaciullata sui binari della metropolitana. Quindi siamo sempre in tema. Siamo sempre in tema, perché io un giorno, molti anni fa, lessi questa notizia molto inquietante, ma molto letteraria, perché una persona era stata buttata sotto un treno in una stazione della metropolitana di Milano e le indagini condotte dalla polizia non arrivarono a nulla, perché non c'era un movente da parte di nessuno delle persone che conoscevano questa vittima, e quindi si arrivò alla conclusione che era stata buttata sotto un treno da un folle, o comunque uno che aveva voluto fare un gesto nicciano, non si capisce, superomista. Io voglio diventare Dio e butto, decido io. E allora questa cosa mi colpì moltissimo, il fatto che non ci fosse un movente, che fosse una cosa assolutamente così casuale. Decisi di scrivere un libro dove mi immaginavo che cosa pensavano 20 persone che aspettavano per 5 minuti un treno, e che cosa pensava anche quello dei 20 che... Il grande fabbricatore di hamburger dell'universo. Sì, lui. Demetrio, buongiorno. La storia che le racconto io è di una identità che non è stata rivendicata. La storia avviene nel 1875, siamo in Calabria, non le dico in quale città, nasce mia nonna, io sono il nipote. Nel tempo faccio una ricerca sulla famiglia, come dopo una certa età tutti quanti siamo per malattia indotti a fare, e raccolgo le notizie che riguardavano questa mia nonna, che sintetizzo così: nasce in una famiglia ben identificata, che però utilizza le leggi del tempo per avere la possibilità di prendere i soldi dall'allattamento del bambino nato da ignoti, per cui ci muoviamo in un ambiente evidentemente... Cioè, fa la nutrice, accadeva anche in altre regioni, penso, no? Non saprei. Diciamo che succede questo fatto, la persona viene, mia nonna viene allevata, poi va a finire in un collegio per orfani, e però questa famiglia di origine continua a tenere i rapporti con lei. Lei si sposerà con mio nonno, ne resterà vedova nel 1918, perché questo nonno muore in quelle situazioni, e però ha mantenuto sempre i rapporti con questa famiglia di origine. La famiglia di origine addirittura ha mantenuto i rapporti con mio padre, e io ho potuto conoscere un discendente di questa famiglia che avrebbe voluto sposare una mia sorella. E quindi lei ha due famiglie legate comunque da un nesso comune, che è questa storia abbastanza segreta, perché la dice con grande reticenza, vedo, di sua nonna. Sì, di mia nonna, che peraltro era una persona molto religiosa, e non ha mai avuto il desiderio di fare male a nessuno, però ecco, ricordo questo particolare, singolare, che mio padre diceva che da bambino andava spesso, al tempo della vendemmia, a vendemmiare nel terreno che i parenti di, proprietari di quella terra dicevano che sarebbe stata la terra di sua madre, la vigna di sua madre. Beh, quindi capisco che fra nostalgia, senso di magari alcuni privilegi perduti, peso di una fanciullezza anche problematica, si snoda comunque una storia di famiglia molto intensa. Rita Charbonnier, La strana giornata, Alexandre Dumas, romanzo storico per la PM. Su queste spontanee irruzioni di letteratura in storie normali, tu invece sei occupata della storia di un grande della letteratura. Alexandre Dumas, sì. Padre, Alexandre Dumas padre, sì, è un personaggio importante nel romanzo, anche se la vicenda centrale del romanzo è una vicenda che ha qualcosa in comune con quello che ci è stato appena raccontato. Anche qui c'è un mistero, c'è uno scambio di neonati, ci sono delle paternità, delle maternità non chiare, ci sono delle indagini, c'è una storia familiare all'interno della quale andare a fare ricerche. Quindi tutti gli elementi di costruzione, dal feuilleton al grande romanzo popolare, al contemporaneo romanzo televisivo, alla fine affondano le radici in dei meccanismi che regolano anche le esistenze di noi persone comuni. Non ci si inventa nulla, quindi le chiavi letterarie, Mastrantonio, in realtà sono le piccoli espedienti che la vita ci mette davanti per sopravvivere. Sì, forse sono anche delle forme che si sono calcificate, sono i rapporti di forza tra i personaggi, tra le persone, poi quelli che creano le storie. Sicuramente il romanzo, prima sentivo anche la signora appunto che raccontava questa vibrazione con il prete. Beh, insomma, mi veniva in mente tutti i grandi romanzi dell'inizio della tradizione romanzesca, che avevano molte. La Monaca di Diderot è solo un esempio di quanto anche l'ambientazione tra sacrestia e retrochiesa, insomma, eccitasse. I Promessi Sposi nelle prime versioni erano piene di noir. Stiamo vivendo l'epoca in cui il grande anatema pubblico sul secondo romanzo di Dan Brown sta sconvolgendo la nostra coscienza civile. È un romanzo rosa scritto sui quotidiani in questi giorni, sta appassionando nel bene e nel male milioni di italiani. 800 24 0024, stiamo parlando della trasformazione della carne umana in letteratura alla Fiera del Libro di Torino. Lo stiamo facendo con divertiti e anche importanti ospiti a cui sono molto grato. Primo Giuseppe Culicchia, autore torinese, il suo ultimo romanzo Brucia la città, Mondadori, parla proprio delle trasformazioni della sua città, intesa come carne avvolgente che l'ha generato e continua a tenerlo in vita. Rita Charbonnier, autrice della strana giornata Alexandre Dumas, un romanzo storico PM in cui elabora il vero trauma, il vero dolore della sua esistenza di chiamarsi Rita Presciuttini, essendo la data anche di abbondanze e opime carnalità, quindi questo probabilmente la segnava troppo e quindi si è chiamata Charbonnier. Abbiamo Luca Mastrantonio, un collega del Riformista, che ha scritto un libro sull'irrazional popolare, che in fondo è il sentimento più genuino che permette ogni giorno di dare l'illusione della possibilità di trasformare la propria carne in letteratura televisiva a milioni e milioni di esseri umani. E poi abbiamo colto nella folla applaudente che di fronte a questo stand si accalca desiderosa di dare un istante di senso alla propria vita, Danilo Ruffo, di 24 anni, autore della Teiera di porcellana, editore Ducas, si dice così? Ducas, credo. Ducas. No. Ah, beh, devo chiedere ancora. Cioè, tu sei un giovane attore, un giovane autore esordiente. Non è esatto, nel senso che ho già pubblicato un altro libro nel 2005. È andato male che ci stai ricordando. È andato maluccio. Cioè, nel senso non la compra, oltre nonno, zia e nonna. Beh, vabbè, sì, più o meno. Ecco, questo Teiera di porcellana, sei qui di fronte a un... ho un parterre di persone che possono giudicarti tipo uscire vivo o stramazzato definitivamente da questo studio radiofonico. Speriamo. Ti usiamo come case history, ti usiamo come esempio di dissuasione alla letteratura, visto che il primo pensiero che viene a un salone del libro e si scriva veramente tanto, un'infinità di libri, dove andranno a finire tutti questi libri, tutti questi alberi tagliati per inutili copertine esposte in questi stand che nessuno comprerà o pochi compreranno o molte volte sono semplicemente l'esaurimento del desiderio velleitario di un autore di vedersi stampato in copertina. Vediamo se il tuo destino sarà quello di essere un autore o se essere semplicemente un altro degli esempi di velleità letteraria. Innanzitutto, perché hai scelto un titolo così pretenzioso, La teiera di porcellana? No, non è un titolo pretenzioso, è nato così il libro, per cui doveva chiamarsi per forza così. La teiera di porcellana è la teiera che il protagonista del libro ottiene in regalo dai genitori, dopodiché i genitori muoiono, per cui poi questa teiera seguirà, cioè sarà fondamentale. Come la lampada di Aladino? Più o meno. E cosa esce da questa teiera? No, nulla, però diciamo comunque, come dire, rappresenterà durante tutta la sua vita un oggetto, un feticcio. Oggetto, sì, perché comunque è l'ultimo regalo ai suoi genitori prima di morire, per cui alla fine... E la porta addosso poi come un amuleto? Non le dico come finisce. No, beh, questo no, se no già poco te lo compreranno. Sarà importante anche nel finale. Ecco, quanto è legato la tua carne alla teiera di porcellana? Questo voglio capire. Il romanzo è, diciamo, parzialmente autobiografico. Perché non totalmente? Non totalmente, perché ovviamente, cioè, se no avrei dovuto scrivere una biografia, insomma, un'autobiografia. E pensi che invece il mondo non sia interessato? Beh, a un autore semisconosciuto come me, insomma, non credo sia proprio... Giuseppe Culicchia, perché c'è questa reticenza a usare il proprio vissuto, pensando che al mondo non interessi la propria vita, e uno si appoggia a teiere di porcellana per raccontare la sua storia? No, a me veniva in mente... Non conosco questo signore, lo vedo adesso, quindi sto cercando di provocarne l'emotività, perché così almeno racconta se stesso. Ma ultimamente assistiamo al fenomeno dell'autofiction, no? Mi viene in mente, che so, l'ultimo libro di Francesco Piccolo, che dopo aver fatto tutt'altro genere di narrativa ha raccontato anche molto esplicitamente se stesso, tra l'altro in un bel libro. Quindi chissà, forse io devo dirti la verità, non sono così interessato a capire fino a che punto un autore stia dentro il libro. A me interessa il libro. L'autore, la carne, muore, va, passa. Il libro, se è un buon libro, rimane. E quindi chi se ne frega dell'autore a un certo punto? Hai perfettamente ragione quando parliamo di letteratura con la L maiuscola. Il piccolo gioco provocatorio era di suscitare, solleticare, sollevare e rendere pubblico il desiderio che c'è in ognuno di noi di trasformare in momenti epici il proprio quotidiano. Ci sono anche, ultimamente c'è, sai, quel sito dove tu invii praticamente il tuo manoscritto, sì, e ti pubblicano 10, 100, 1000. Oggi pubblicare è molto semplice, diciamo. Una delle cose che in Italia accadono ancora piuttosto spesso, e questo così è bene anche avvertire chi... il fenomeno degli editori a pagamento avviene da qualche anno, certo. Sì, che è un fenomeno come dire, per l'autore parecchio frustrante, perché l'editore a pagamento ahimè non ha una distribuzione nazionale, quindi il tuo libro, che tu naturalmente ami perché magari l'hai scritto con tanti anni di fatica, dove ci hai messo tutta la tua vita, sì, viene stampato, viene pubblicato, poi però non viene distribuito, te lo fanno trovare nella libreria sotto casa. Però lo puoi regalare agli amici, puoi fare delle presentazioni, puoi dire ho scritto un libro, questo sì, e rimarrà per generazioni a figli e nipoti il libretto stampato. Perché ridi, Mastratone? Perché in realtà tutto ciò è molto vero, ma grandi autori si sono autopubblicati, anche Saba, e poi Moccia ha iniziato così. La fase da Dino Campana di Moccia è che lui andava in giro poi a portare le fotocopie, oppure c'erano lettori che si passavano questo libro. Quindi in realtà è anche, non solo è vero, ma è anche peggio o anche meglio, perché il problema è quanto poi essenzialmente si può leggere, cioè quanto il corpo di lettori può assimilare dei libri che vengono... Danilo Ruffo, confessa, l'hai pagato il tuo libro da solo o te l'hanno fatto? Assolutamente no. Quindi confesso. Non hai speranza di moccizzarti? Più o meno. Vabbè, rassegnati al tuo destino. Rita Charbonnier, tu sei buttata nel romanzo storico, mi sembra uno dei più mattonanti generi letterari, però ti auguro la massima fortuna. Ti ringrazio, ma non è noioso il mio romanzo, te lo garantisco. No, assolutamente, sarà divertentissimo, ma richiede una grande applicazione, un grande studio. Se uno deve studiare per fare letteratura, secondo me già si è tagliato in parte il desiderio di fuga poetica, però è un mio personale, sì. E suscettibile di ogni critica parere. No, ma anche se in realtà, anche nel caso del romanzo storico, la direzione di ricerca non è tanto quella storica del particolare quanto quella psicologica, certo. Perché poi secondo me comunque e sempre, che lo si voglia udire o no, che si abbia il coraggio di confessarlo oppure no, si parla sempre di se stessi. Certo, naturalmente, e io infatti avendoti davanti davanti è una parte di nel tuo trasparente volatile vestituccio mi ricordo della prosciuttini che è in te e quindi non posso chiamarti. Grazie a Fabrizio Intonti e Paolo Corleoni, a lunedì con la trasmissione di Melog, finalmente ritornata, no finalmente purtroppo, negli studi romani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.